Arrosti. Gli arrosti allo spiede, eccezion fatta degli uccelli e dei piccioni, nei quali sta bene la salvia intera, non si usa più di lardellarli, né di pillottarli, né di steccarli con aglio ramerino o d'altri odori consimili che facilmente stuccano o tornano a gola. Dove l'olio è buono, ungeteli con questo liquido, altrimenti usate lardo o burro, ove per qualche ragione locale si suol dar la preferenza all'uno più che all'altro di questi condimenti. L'arrosto in generale si preferisce saporito, e però largheggiate alquanto col sale per le carni di vitella di latte, agnello, capretto, pollame e maiale. Tenetevi più scarsi con le carni grosse e con l'uccellame, perché queste sono carni per se stesse assai saporite, ma salate sempre a mezza o anche a 2/3 di cottura. Commettono grave errore coloro che salano un arrosto qualunque prima di infilarlo nello spiede, perché il fuoco allora lo prosciuga, anzi lo risecchisce. Il maiale e le carni di bestie lattanti, come vitella di latte, agnello, capretto e simili, debbono essere ben cotte per prosciugare la soverchia loro umidità. Il manzo e il castrato cuoceteli assai meno, perché essendo queste carni molto asciutte, devono restare sugose. Gli uccelli cuoceteli a fiamma, ma badate di non arrivarli troppo, che quelle carni perderebbero allora gran parte del loro aroma. Però avvertite che non sanguinino, il che potrete conoscere pungendoli sotto l'ala. Anche dei polli si può conoscere la giusta cottura quando, pungendoli nella stessa maniera, non esce più sugo. Le carni di pollo risulteranno più tenere e di miglior colore se le arrostirete involtate dentro un foglio la cui parte aderente alla carne sia prima stata unta di burro. Per evitare che la carta bruci, ungetela spesso all'esterno. A mezza cottura levate il foglio e terminate di cuocere il pollo, il tacchino o altro che sia, salandoli ed ungendoli. E in questo caso sarà bene di mettere un po' di sale nel loro interno prima di infilarli allo spiede e di steccar col lardone il petto dei tacchini e delle galline di Faraone. Qui è bene avvertire che il piccione giovane e il cappone ingrassato, sia arrosto che lesso, sono migliori di acci che caldi e stuccano meno. Le carni arrostite conservano meglio che preparate e in qualunque altra maniera le loro proprietà alimentari e si digeriscono più facilmente.